Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Caso di mesotelioma pleurico al Volta di Trieste, risarcimento alla famiglia di un tecnico di laboratorio che nella scuola lavorò esposto all'amianto. Segnali di ripresa dal mercato dell'elettrodomestico, rifiata un settore da tempo in crisi, ma industriali e sindacati avvertono le tensioni internazionali potrebbero vanificare il passo avanti. Manifestazione per Gaza nel pomeriggio a Trieste, trasversale e apartitica, parla uno dei promotori. A Udine in consiglio comunale approvata la mozione di Alleanza Verdi e Sinistra. Contrabbando di sigarette, la Guardia di Finanza di Trieste sequestra la carta contraffatta per confezionare quasi 500.000 di pacchetti. Gioco d'azzardo, una patologia che riguarda centinaia di persone ma che fatica ad emergere, la segue il Dipartimento delle Dipendenze. I pericoli del mondo online per i più giovani, un incontro dedicato agli adolescenti con il fondatore dell'associazione MEDAR, Don Fortunato di Noto. Le 12.31, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Andrei Marusci. In apertura la cronaca giudiziaria e il verdetto con il quale la Corte d'Appello di Trieste ha condannato il Ministero dell'Istruzione a un risarcimento per la morte di un ex aiutante tecnico dell'Istituto Volta. L'uomo, deceduto nel 2016, era stato stroncato da un mesotelioma pleurico ed era stato in precedenza a lungo a contatto con l'amianto proprio nell'ambito della scuola. Le bonifiche sono arrivate negli anni 80, ma quando fu costruito alla fine degli anni 60, l'Istituto Volta di Via Montegrappa a Trieste era considerato un gioiello di modernità, con aule ampie, tanti laboratori, una grande officina meccanica. Ma questa, come laboratori, era stata trattata come si usava all'epoca, con cemento e vernici contenenti amianto per rendere i locali ignifughi. Soffitti e muri avevano presto iniziato a sgretolarsi, rilasciando una polverina impalpabile ricca di fibre di asbesto. È qui che Roberto Bellanova, all'epoca aiutante tecnico dell'istituto, operò per anni. L'esposizione è accertata tra il 1972 e il 77, occupandosi di aggiustaggio, gestione di macchine, utensili e manipolazione di materiali contenenti amianto. Morì nel 2015 a causa di un mesotelioma pleurico. La Corte d'Appello del Tribunale Civile di Trieste ha oggi riformato la sentenza di primo grado che aveva respinto la richiesta di risarcimento, riconoscendo le responsabilità del Ministero dell'Istruzione e il legame tra la malattia e le mansioni svolte da Bellanova all'interno del Volta, e condannando il Ministero al risarcimento di 600.000 euro in favore degli eredi del deceduto. Sulla vicenda si era aperto anche un processo penale che però è stato archiviato, come spiega il legale degli eredi di Bellanova, l'avvocato Corrado Calacione. Il discorso è stato che nella sentenza di primo grado, dopo essere stati sentiti dei testimoni e aver acquisito la documentazione, il giudice non ha ritenuto esserci elementi sufficienti per disporre una perizia medica, cosa che invece il collegio della Corte d'Appello ha fatto, e il medico legale che è stato incaricato ha accertato la sussistenza di un nesso causa-effetto tra l'esposizione all'amianto di allora e l'insorgenza della malattia e poi il decesso. Trieste, Francesca Vigori, TGR Friuli Venezia Giulia. Fino a quando la notizia non è uscita sui giornali non sapevamo nulla della vicenda di Giulio Regeni, e quando si è saputo della morte del ricercatore ho chiesto di fare chiarezza per 2 o 3 volte ricevendo risposte rassicuranti. Lo ha detto l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, chiamato come testimone nel processo ai 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato ed ucciso Giulio Regeni. Lo ha fatto oggi al Tribunale di Roma. Descalzi ha ribadito che in quel periodo, fine febbraio, nel gennaio del 2016, si è recato in Egitto perché l'ENI aveva attività aperte e ha presenziato agli incontri tecnici con i funzionari di Stato e le autorità. Questo da quanto ricostruito con Descalzi e i giudici, ai quali ha poi risposto che sarebbe ingenuo dire di avere oggi la stessa fiducia di tanti anni fa nei confronti di una possibile verità sulla morte di Giulio. Si tratta di un omicidio atroce di cui non mi do ancora oggi spiegazione, ha spiegato Descalzi rispondendo alle domande dei difensori degli imputati. Siamo ai temi del lavoro in ripresa, il mercato interno dell'elettrodomestico con dati che fanno intravedere spiragli per l'uscita dalla crisi. Alla Electrolux restano comunque le difficoltà dello stabilimento di Porcia. Il mercato italiano degli elettrodomestici nel primo trimestre dell'anno segna un incoraggiante recupero con una crescita del 2,4%. Il dato è emerso ieri all'assemblea annuale dell'Associazione Nazionale di Confindustria, che riunisce le imprese operanti nel settore in Italia. Nel dettaglio, il mercato dei grandi elettrodomestici cresce del 2,4% a valore e del 3,8% a volume, nonostante una flessione del prezzo medio. Tra i segmenti più dinamici, lavatrici e asciugatrici, lavastoviglie e frigoriferi da incasso. Il segmento dei piccoli elettrodomestici mostra una domanda in aumento ma un calo del fatturato. Esprime cauta soddisfazione per quella che potrebbe essere l'inizio di un'inversione di tendenza il presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti. Possiamo dire di guardare con cauta soddisfazione questa inversione di tendenza, però naturalmente sapendo e avendo la consapevolezza che lo viviamo e continuiamo a fare critica, che non ci consente di fare pronostici a lungo termine. Il prossimo 5 giugno le organizzazioni sindacali sono state convocate al Ministero delle Imprese per un tavolo su Electrolux. Gianni Piccinin, FIM CISL. I dati sono positivi rispetto al 2024 sul mercato italiano, nonostante rimane ancora un mercato europeo, compreso l'Est Europa, comunque in calo. Degli stabilimenti italiani, i 5 stabilimenti, rimane ancora Porcia quello che ad oggi è più in difficoltà per il prodotto che ha. L'italiano ha una spesa media di circa 500 euro per elettrodomestico. Per il 2025 la produzione stimata a Porcia è di 725.000 pezzi rispetto ai 707.000 del 2024. Attualmente la produzione lavora su un unico turno giornaliero con circa 150 lavoratori sugli 800 addetti in solidarietà a rotazione settimanale. Porcia, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il gruppo Danieli di Butrio ha avviato due nuovi progetti ad alta innovazione sviluppati per M-Steel, leader nella produzione di acciaio green nella regione del Golfo. Il primo progetto prevede l'installazione di un modulo elettrico per il preriscaldamento del gas naturale utilizzato nell'impianto di riduzione diretta del minerale di ferro, un'innovazione che permette di ridurre l'utilizzo diretto della combustione, abbattendo ulteriormente le emissioni inquinanti. Il secondo riguarda la modernizzazione di un laminatoio pesante ad Abu Dhabi. Il sistema di controllo fornito da Danieli permetterà di produrre travi di acciaio di grandissime dimensioni, ancora più resistenti e leggere, secondo i più alti standard internazionali di qualità e sicurezza. Nel pomeriggio a Trieste la manifestazione per Gaza, alla quale hanno già aderito in centinaia in modo trasversale e apartitico membri della società civile, rappresentanti del mondo della cultura italiana e slovena, esponenti del mondo cattolico, ebraico e musulmano, rappresentanti di associazioni e sindacati, giornalisti, storici, politici. Una petizione per la cessazione dei massacri a Gaza era stata lanciata nei giorni scorsi. Primi firmatari Pierluigi Sabatti, Mauro Gialuz, Nathan Levi, Miloš Budin e Roberto Treu. Il ritrovo è alle 18 in piazza Oberdan, poi un corteo che si concluderà in piazza Verdi. Fermare i massacri a Gaza e favorire la pace tra Israele e Palestina è lo spirito della manifestazione trasversale, priva di colore politico e di sigle, che si terrà a Trieste oggi a partire dalle 18 con il raduno in piazza Oberdan. Roberto Treu, uno dei promotori della manifestazione. Gli obiettivi di questa manifestazione è quello di dare voce a un sentimento di sgomento, di rabbia e di impotenza che pervade moltissime persone, vorrei dire tutte, di fronte alle immagini di quello che sta succedendo a Gaza, dove oltre 50.000 persone sono già morte, ma ben più di un terzo sono bambini. La richiesta è un immediato cessate il fuoco nella striscia per permettere l'invio di aiuti umanitari alla popolazione palestinese. In atto poi un'azione che la Corte internazionale giudica di crimini di guerra, perché asseta per la popolazione e affama la popolazione. Questa è una cosa che non si è mai vista negli ultimi anni. Sono già centinaia le adesioni, personalità del mondo della cultura, ma anche cattolici, laici e membri delle comunità ebraiche, per fare pressione sulla politica. È importante che l'Unione Europea abbia sospeso il rinnovo degli accordi con Israele, e noi chiediamo che anche il governo italiano sospenda il rinnovo che scade l'8 di giugno di accordo con Israele proprio sugli armamenti. La manifestazione avrà un servizio di sicurezza, ma conta anche sulla fermezza dei partecipanti per evitare infiltrazioni di gruppi violenti pro-palestinesi e fin da subito fa piazza pulita da eventuali polemiche. Non c'entra niente con problemi di antisemitismo, perché noi su questo siamo netti, diciamo così, nel distinguere l'azione di questo governo da quello che è viceversa la tutela di Israele legittima anche rispetto agli attacchi subiti da Hamas. Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. E intanto in Consiglio Comunale a Udine è stata approvata nell'ultima seduta una mozione per Gaza formalmente all'unanimità. 21 votanti, 21 favorevoli. Il Consiglio approva la mozione. Applausi dalla maggioranza di centrosinistra, banchi vuoti in minoranza di centrodestra. Così, dopo mezzanotte, il Consiglio Comunale di Udine ha approvato la mozione che impegna il sindaco e la giunta a chiedere al governo nazionale di lavorare per il cessate il fuoco, il rilascio di tutti gli ostaggi, la pace, il rispetto dei diritti umani e il diritto internazionale e di riconoscere lo Stato di Palestina e il diritto per la sua cittadinanza a vivere in condizioni di dignità e pace. Una mozione simile a quella approvata in altre parti d'Italia, dall'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna al Consiglio Comunale di Napoli. Andrea Di Lenardo, consigliere comunale dell'Alleanza Verdi Sinistra. La minoranza ha ritenuto più urgente andare a mangiare la pizza in via Vittorio Veneto, evidentemente, e dispiace rispetto a temi così, veramente. E l'abbiamo presentata perché è fondamentale dare un segnale al governo italiano. Abbiamo avuto un'Europa che è stata immobile per un anno e mezzo. Adesso finalmente qualcosa si muove. La Francia riconoscerà lo Stato di Palestina in questa settimana, insomma, a giugno. L'Italia invece continua a schierarsi con Netanyahu. Il sindaco De Toni e alcuni consiglieri hanno aderito ieri al digiuno per Gaza promosso dalla rete di Trieste. Le valanghe cominciano con un piccolo granello. Grazie. Oggi nel capoluogo giuliano la manifestazione per la pace tra israeliani e palestinesi con raduno dalle 18 in piazza Oberdan. L'opposizione aveva presentato due mozioni in cui si faceva riferimento anche alla soluzione dei due stati, ma aveva chiesto il rinvio perché, scrive la capogruppo della Lega Francesca Laudicina, discussioni così importanti non possono essere affrontate a notte fonda, dopo 6 ore di dibattito in aula su altri temi. Il centrosinistra ha votato per proseguire i lavori, rinunciando così a un confronto serio e democratico, ha aggiunto Luca Vidoni di Fratelli d'Italia. La loro mozione non è stata discussa, puntualizza la presidente del Consiglio Comunale, Rita Nassimbeni, perché farlo in loro assenza sarebbe stato uno sgarbo istituzionale. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Notizia di cronaca: i finanzieri del Comando Provinciale di Trieste hanno sequestrato 4 bancali contenenti pacchetti vuoti di sigarette ancora stesi che sarebbero serviti per confezionare circa 10 tonnellate di sigarette di contrabbando. Sui pacchetti vuoti, 480.000 pezzi, era contraffatto un marchio della multinazionale Philip Morris. Le Fiamme Gialle hanno trovato i bancali in un magazzino il cui affittuario, un cittadino moldavo, è stato denunciato. Sono in corso indagini dirette dalla Procura di Verona per individuare la fabbrica clandestina destinataria, ricostruire l'intera filiera e identificare tutti i componenti della banda. Le 12.43, il meteo, cielo nuvoloso e coperto sulla regione, le temperature registrate alle 11, Trieste 23,5 gradi, Gorizia 22, Udine 20, Pordenone 17, Tolmezzo 16, Forni di Sopra 13, Tarvisio 13, Piancavallo 11, Sappada 10,5 gradi. Sullo Zoncolan 7 gradi, invece sul Lussari 5. Lignano e Grado 23,5 gradi. E ora le previsioni a cura dell'ARPA. Nel pomeriggio sulla zona montana avremo cielo in prevalenza nuvoloso con possibili piogge sparse, in genere deboli o moderate. Su pianura e costa variabile con possibili rovesci e qualche temporale. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà bora moderata, nuovamente più forte in serata. Domani al mattino su tutta la regione cielo poco nuvoloso, nel pomeriggio variabile con probabili rovesci e temporali sparsi sulla zona montana, ma che successivamente potranno interessare tutte le zone. Sulla costa soffierà vento da sud o sud-ovest moderato. La microbiologa brasiliana Mariangela Hungria è la vincitrice del World Food Prize 2025, considerato il Nobel per l'agricoltura, per i suoi contributi ai progressi scientifici nella fissazione biologica dell'azoto, che hanno trasformato la sostenibilità della salute del suolo e della nutrizione delle colture nell'agricoltura tropicale. Lo ha fatto sapere dalla sua sede di Trieste, l'Accademia Mondiale delle Scienze per il Progresso Scientifico dei Paesi in via di sviluppo, di cui Ungheria è membro. Mariangela Ungheria ha sviluppato decine di trattamenti biologici per semi e terreno che aiutano le colture ad acquistare nutrienti attraverso i batteri del suolo, aumentando in modo significativo la resa delle principali colture e riducendo il bisogno di fertilizzanti sintetici. Si stima che i suoi prodotti siano stati utilizzati su oltre 40 milioni di ettari in Brasile, consentendo agli agricoltori di risparmiare fino a 40 miliardi di dollari all'anno in costi di produzione, evitando l'emissione di 180 milioni di tonnellate di anidride carbonica. Gioco d'azzardo patologico, un fenomeno sommerso e ancora poco visibile. Sono un centinaio le persone seguite in particolare dal Dipartimento per le Dipendenze di Asugi e 2/3 di loro sono uomini. Ma i numeri reali sono ben più alti. A restare nell'ombra sono soprattutto le donne che in questi casi faticano di più a chiedere aiuto. Domani si celebra in tutto il mondo la giornata dedicata al gioco, un'occasione per accendere i riflettori su una dipendenza spesso silenziosa ma che distrugge vite e famiglie intere. Si è giocato 200.000 euro in pochi anni, poi la casa, è arrivato a rubare soldi e gioielli alla compagna, ha privato i figli di tutto, anche il cibo scarseggiava. È la storia di uno degli oltre 100 giocatori di azzardo patologici al momento in carico al Dipartimento delle Dipendenze di Asugi, ma le storie si somigliano tutte. Chiedere aiuto è difficile, la porta del Parco di San Giovanni a Trieste però è sempre aperta, l'accesso è libero e l'anonimato è garantito e dopo un po' di terapia individuale si può anche entrare in un gruppo di aiuto e confrontarsi con gli altri. Alessandra Pizzolato, responsabile del Dipartimento di Dipendenze di Asugi. Vengono tenuti i gruppi terapeutici ogni lunedì sera per curare il gioco d'azzardo patologico. Quindi le persone che si sono rivolte a noi chiedendo aiuto per questo tipo di problema, dopo una valutazione anche fatta a livello multidisciplinare. Si può guarire? Sì, si può guarire nella misura in cui la persona si concede il tempo per capire la sua malattia, togliersi dalle situazioni di rischio e per cambiare stile di vita, rimanendo un po', diciamo, sempre con le antenne su rispetto alla propria vulnerabilità. Come ha fatto uno dei pazienti seguiti dalla psicoterapeuta Chiara Girardini, membro dell'equipe di cura. Ha scoperto veramente che questo era un problema grosso per lui e quindi aveva perso tutto e invece sta riacquistando pian piano tutta una serie di autonomie e di benessere. 2/3 di chi chiede aiuto è uomo, ha un'età compresa fra 30 e 50 anni e reddito medio-basso. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, per ogni persona in trattamento ce ne sono 50 circa che non ricevono alcun supporto. Fra queste molte sono donne. In questo caso è più frequente l'aspetto di fuga, cioè nel tentare di giocare d'azzardo non tanto per guadagnare denaro quanto per creare uno spazio, un ambito di fuga da un disagio, un disadattamento, un periodo stressante della vita. Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia. Violenza, bullismo, pedopornografia, ma anche l'acquisto di droghe e armi. Questi sono solo alcuni pericoli del mondo online sui quali l'Istituto Comprensivo di Visione Giulia ha organizzato un incontro pubblico dedicato agli adolescenti al Cinema Ambasciatore di Trieste. Ospite della conferenza, Don Fortunato Di Noto, fondatore dell'associazione METAR, in prima linea da oltre 30 anni contro gli abusi sui minori online. Sentiamolo. Don Fortunato Di Noto da tanti anni con l'associazione METAR si occupa di pedofilia. Come è cambiato il fenomeno negli anni? Ma di per sé il fenomeno non è cambiato perché l'abuso è sempre abuso e quindi di conseguenza il coinvolgimento dei minori fa parte di questa illogica mentalità che poi si tramuta in offesa alla dignità dei bambini, dei piccoli. È cambiato proprio perché internet ha favorito la diffusione delle immagini, dei video e quindi di conseguenza le cosiddette violenze digitali sessuali sono aumentate di gran lunga in questi anni. Tenete conto che ormai gli studi hanno accertato che 1 su 8 minori nel mondo ha subito una violenza digitale sessuale e quindi se noi l'applichiamo nei nostri territori automaticamente ci rendiamo conto che dei minori sono stati coinvolti o perché sono stati adescati o perché hanno vissuto inconsapevolmente o consapevolmente del revenge porn, oppure del cyberbullismo sessuale, oppure eventualmente sono caduti nella rete e difficilmente ne sono usciti, soltanto poi quando trovano punti di riferimento per poter chiedere aiuto. Ecco, e da lì nasce poi il percorso della speranza e il percorso della redenzione, chiamiamolo così. Come si può prevenire la pedofilia, in particolare in rete? Beh, innanzitutto siamo noi più che convinti che tutto nasce anche dal luogo privilegiato della protezione che è la famiglia, la propria casa. Bauman direbbe che se vuoi la felicità o l'infelicità la trovi a casa tua. E allora la casa deve essere una casa protetta dove i rapporti siano rapporti cordiali, leali, sinceri e soprattutto dei punti di riferimento che sono automaticamente gli adulti e i genitori, che dovrebbero imparare ad avere dei doveri nei confronti dei minori e quindi di conseguenza attivare tutti quei canali necessari affinché i minori non si sentano abbandonati. Perché del resto è la solitudine quella che favorisce la possibilità ai minori di perdersi, naufragare nel mondo digitale, perché il mondo digitale non è una cosa virtuale, è una cosa molto reale. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. L'assistenza domiciliare pubblica e il long term care riduce del 13% il rischio di depressione e del 6,7% la solitudine negli anziani con autosufficienza limitata. E quanto emerge da uno studio condotto da Ludovico Carrino, docente di economia politica all'Università degli Studi di Trieste, in collaborazione con Erika Reinhardt del King's College di Londra e di Maurizio Avendano dell'Università di Losanna, è pubblicato sulla prestigiosa rivista Health Economics. Secondo il professor Carrino, la depressione in età avanzata ha infatti un costo sanitario nel Regno Unito e in Germania che si aggira intorno ai $3,000 annui a persona. In Italia lo sviluppo del long term care pubblico, secondo Carrino, può offrire ulteriori spunti per riforme di welfare più sostenibili ed efficaci. Si stanno svolgendo in questi giorni gli incontri itineranti che fanno da prologo al Festival del giornalismo organizzato dall'Associazione Le Ali delle Notizie. Questa sera alle 21 a San Canzian di Sonzo sarà presentato il libro Vita al fronte di Luca Steinman, che dialogherà con Paolo Mosanghini del Messaggero Veneto. Questa mattina ad Aquileia c'era Antonella Napoli, che ha incontrato gli studenti per parlare dell'Africa e in particolare del Congo. Sentiamola. La guerra civile che sta dilaniando le province orientali del Congo e che ha causato oltre 7 milioni di sfollati e innumerevoli morti è raccontata da Antonella Napoli nel suo documentario Congo, che sarà presentato ad Aquileia nell'ambito del Festival del giornalismo. Antonella Napoli ha raccolto in un libro anche le testimonianze di tantissimi bambini soldato che combattono questa guerra. Lei incontra spesso gli adolescenti e come reagiscono i nostri ragazzi quando scoprono che i loro coetanei imbracciano le armi, fanno i soldati, uccidono e muoiono. Innanzitutto si sentono molto fortunati perché capiscono, comprendono che nascere nella parte giusta del mondo non è un merito, è pura fortuna, e quindi capire quello che c'è al di là del loro piccolo giardino, e in modo particolare effettivamente li colpisce molto il fenomeno dei bambini di soldato come i bambini di strada, perché anche questo racconto sia nel reportage che vedranno i ragazzi che nel libro che è La luce oltre il buio, dove appunto sono raccolte decine e decine di storie in prima persona di questi loro coetanei, parliamo anche di bambini più piccoli, quindi la vivono come una scoperta che gli fa comprendere appunto che loro sono dei privilegiati. Infatti io ci tengo molto a spiegare che ci sono bambini che non hanno proprio diritti che per loro sono scontati, come il diritto al gioco, il diritto ad andare a scuola, il diritto ad essere curati. Nada Choc, TGR Friuli Venezia Giulia. Politica e rapporti internazionali, questa mattina al centro di uno degli approfondimenti di Buongiorno Regione con un docente abbiamo parlato di populismo. Il vento del populismo continua a soffiare anche se in Romania non ha vinto le elezioni, va forte in Gran Bretagna e da una decina d'anni è salito prepotentemente alla ribalta in tutta Europa e mischiato al qualunquismo anche nell'America trampiana della post-verità. Ma cosa si intende politicamente per populismo e che origine ha? Mattia Zulianello, professore Università di Trieste. Ma il populismo è una particolare ideologia, un modo di vedere la realtà abbastanza particolare che in fin dei conti divide il mondo in due gruppi. Da una parte c'è un popolo puro, visto come portatore di valori autentici, genuini, moralmente superiore rispetto a qualcos'altro, e poi abbiamo queste elite. Da un'altra parte, le elite che sono corrotte, brutte, sporche, cattive e che si propongono, in fin dei conti, di espropriare il popolo della sovranità. Il populismo non ha nulla a che vedere con l'estremismo, sia di destra che di sinistra. Il fascismo e il comunismo, per quanto riguarda l'elemento populista, diciamo, non vanno esagerati, perché per il populismo la persona comune va benissimo così, mentre il fascismo e il comunismo, ad esempio pensiamo a Stakhanov, all'uomo mussoliniano, si proponevano di rifare l'uomo, era molto elitista come visione rivoluzionaria, proprio per andare oltre i limiti dell'uomo. Per il populista il cittadino comune va benissimo così com'è. E quando chiamati a governare, come fanno i partiti populisti a continuare le proprie battaglie? I populisti al governo sono in grado di governare, pensiamo a Chavez in Venezuela, è rimasto al potere per decenni, pensiamo a Viktor Orbán in Ungheria, quindi lì le condizioni oggettive, tra virgolette, possono essere piegate e costruite con delle narrazioni che funzionano, il populismo sopravvive. Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. A Trieste l'orchestra Ferruccio Busoni ha ricevuto questa mattina in municipio un riconoscimento per il 60° anniversario dell'attività artistica. Diretta da Massimo Belli, l'orchestra nei prossimi giorni sarà in concerto al Ridotto del Teatro Verdi, giovedì e domenica 1 giugno a Milano a Palazzo Morando. In entrambe le circostanze suonerà anche Laura Marzadori, primo violino dell'orchestra del Teatro alla Scala. Per quanto riguarda invece i concerti di questa sera, segnaliamo a Gorizia l'appuntamento conclusivo della rassegna Quinta Giusta. All'Auditorium della Cultura Friulana alle 20:30 suoneranno il trombettista Rafael Orrach, vincitore del concorso Città di Porcia, e Jaden King, finalista al Piccolo Violino Magico di San Vito. Ad accompagnarli l'orchestra d'archi Arrigoni, diretta da Domenico Mason. Ancora una notizia di sport, tiro a volo, il friulano Eric Pittini, che veste i colori delle Fiamme Oro, è fin d'ora tra i favoriti per il titolo italiano in calendario ad Arezzo a settembre. Pittini ha vinto domenica in Lombardia il Gran Premio Skeet, che si è disputato a Lonato del Garda, battendo in finale il campano Tamaro Cassandro con 57 piattelli su 60. Nelle qualificazioni il tiratore friulano aveva rotto 124 piattelli su 125. È tutto per questa edizione, che è stata redatta e condotta da Andrei Marusic e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Riccardo Ostoic e Mauro Cumin, ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. 12:57, vi lasciamo alla programmazione di Radio 1, prossima edizione del GR regionale alle 15. Grazie per la vostra attenzione, buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.